mattina col naso piccolino, patatino. Tu come nelle favole sei nata sotto un cavolo, tra ciuffini e prezzemolo sei nata tu, bambina piccolina, patatina col naso piccolino, patatino. In un mattino limpido coi galli che cantavano e i fiori che sbocciavano sei nata tu. Capelli di colore biondo grano e gli occhi di colore ciel sereno, due piccole manine di velluto, in un minuto sei nata tu, bambina piccolina, patatina col naso piccolino, patatino. Chi crede nelle favole cercando sotto i cavoli può avere la fortuna di trovare te. Bambina piccolina, patatina con...